parliamo di questo concetto, responsabilità sociale di impresa. Ora, quando cominciamo una frase per la parola responsabilità, non stiamo facendo riferimento a una legge. Quando parliamo di responsabilità, l'essere umano si confronta sempre con la propria coscienza. In fin dei conti, quando si fa qualche cosa con persone, è inevitabile prima o poi confrontarsi con il tema coscienza. Anche in questa situazione di crisi, e di crisi molto seria, non si risolverà soltanto con delle misure. Nella genesi di questo problema, quando si analizza, fine del 2007, inizio del 2008, che è quando è scoppiato tutto questo problema, che cosa c'è all'inizio? Una mancanza di coscienza delle persone che stavano selvaggiamente speculando con delle risorse che addirittura non erano proprie ma di altri. Quindi ritorno a cercare di rispondere un po' alla sua domanda. Sempre che si parla di responsabilità stiamo parlando in qualche modo di coscienza. L'essere umano non può prescindere di una coscienza, non può prescindere, è una caratteristica umana, a differenza di un animale che non ce l'ha una coscienza. Allora è in quel campo dove si possono trovare risposte a quel problema che lei ha accennato. Non sappiamo chi siamo, cioè oggi ci troviamo, adesso parlo un po' come medico, ci troviamo in un'epoca molto curiosa e molto paradossale della storia dell'evoluzione umana, della storia dell'umanità, per cui sappiamo quasi tutto di un essere, l'essere umano, e lo sappiamo quasi tutto perché lo sappiamo dalla biologia molecolare, dalla genetica, dal neuroimaging, eccetera. Sappiamo quasi tutto di un uomo, di un essere umano, uomo donna naturalmente, tranne che chi è questo essere umano. Questa domanda, c'è un libro bellissimo di un filosofo tedesco, di Spemann, che titola questo libro molto bello, non lo consiglio perché è di queste che ti viene fumo poi della testa quando lo leggi, i tedeschi si prendono la vita sul serio, no? E quindi quando scrivono, che ha un titolo molto suggestivo, nella traduzione italiana si chiama Persone, il sottotitolo è La differenza tra qualcosa e qualcuno, cioè ma io chi sono? Sono una cosa o sono qualcuno? Mi pare che tutta l'etica di tutti i tempi, di qualsiasi, soprattutto nei rapporti con gli altri, si riduce a una cosa: trattare le persone da persone, punto. Però naturalmente questo comporta una cosa: sapere prima che cosa è una persona. Se io non so che cosa o chi è una persona, non potrò mai rispettarla come persona. Accenno soltanto un punto di quelli che lei menzionava. No? Lei immagini se tutto un sistema economico, se tutto un sistema politico, se tutto un sistema dei rapporti internazionali si costruisce senza una solida idea di chi è l'essere umano, le cose non ci possono sorprendere che poi vadano come vanno in alcuni ambienti o in alcune aree del mondo. Sono d'accordissimo con quello che dice lei, no? Le aziende devono per forza investire nei propri asset, per dire così, no? Però anche immagino il caso che per una ragione di principio congiunturale, eccetera, un'azienda non lo facesse questo. Allora il mio consiglio sarebbe: lei continui personalmente, cioè naturalmente deve vivere del suo lavoro in quell'azienda, ma lei si ritagli di tempo e continua a lavorare e continua a investire in se stesso, in termini di tempo, in termini di lettura. Alle volte tutto questo costa, e costa molto, non dico che costa economicamente. Ritagliarsi un po' di tempo per studiare, quando tutti sappiamo il calendario di ognuno, come è la giornata, trasporti, andata, ritorno, eccetera. Ritagliarmi quello spazio per continuare a investire in me stesso e migliorare me stesso. Anche qui c'è un problema di coscienza, cioè non facciamo soltanto un problema di coscienza per l'azienda, è un problema di coscienza per me stesso. In fin dei conti, l'amministrazione del tempo mio, almeno di quelle ore fuori dall'impresa, è un problema mio, non è dell'impresa. La perfezione dell'essere umano non è biologica, la perfezione dell'essere umano è etica. E questo perché? Perché l'essere umano è un animale molto curioso che si pone a se stesso o a se stessa la domanda di io so come sono, ma come dovrei essere? I ragazzi in quella conversazione seguivano, qualcuno sudava. Era. E alla fine uno mi dice, guardi, e chi me lo fa fare? A pormi a me stesso la domanda di come io dovrei essere. Chi me lo fa fare? Io ho detto, no, puoi perfettamente non porti questa domanda di come dovrei essere. Puoi perfettamente rifiutare questa domanda. Ma almeno sii onesto e accetta che rifiutando quella domanda stai rifiutando te stesso. Accettalo e continua. Non succede nulla. Però se tu rifiuti la domanda del come dovrei essere e quindi cercare i miei punti di riferimento in tanti campi, stai rifiutando te stesso in quanto essere umano. È chiaro, mi pare che vi ho detto che il grande ideale etico che le persone si pongono è io, per essere libero, devo poter fare quello che voglio. Magnifico, io sono d'accordissimo con questo. È molto ragionevole. Se no, non sono libero. Se non posso fare quello che voglio, non sono libero. Non sono né una donna libera, né un uomo libero, né un bambino libero. Non faccio quello. Il problema non è questo. Il problema non è di fare o non fare quello che voglio. Il problema è di sapere prima che cosa voglio. Quello è il vero problema. Perché quando l'essere umano non si fa quella domanda sul dover essere, allora che cosa succede inevitabilmente? Che cade nel mondo delle sue pulsioni più istintive, più epidermiche, compresa, facendo riferimento alla crisi economica, compresa quella pulsione che è dell'accumulo indiscriminato di ricchezza. In qualche modo, era l'ideale greco, non sto parlando di una cosa moderna, da oggi già i greci si ponevano questi problemi. Sii quello che devi essere, non soltanto quello che pensi che sei. Esce dalla tirannia della indolenza tua, esce da questa tirannia. Ponti il problema di come voglio essere, di come devo essere, e allora comincia a agire non perché sono così, ma come dovrei essere, quindi divento io così. Mi dispiace definire questo su impresa e società come una riflessione più o meno etica, però è la domanda che ha fatto lui, ho dovuto andare a cercare risposta.